Il terzo anello, ad alta voce. L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Non appena Ben Gunn vide la bandiera, si arrestò, trattenendomi il braccio, e si mise a sedere. «Vedi?» disse. «Sono i tuoi compagni! Non c'è dubbio!» «È assai più probabile che siano gli ammutinati», risposi io. «Come? In una località come questa dove non approdano che avventurieri? Silver avrebbe spiegato la bandiera nera, stai pur sicuro? No, sono i tuoi compagni! Ci deve essere stata zuffa! E per me i tuoi hanno avuto il sopravvento e ora sono sbarcati nel vecchio fortino, costruito tanti anni fa da Flint! Che testa fina quel Flint! Escluso il rum, non c'è stato un altro di quello stampo, nulla, nulla! Gli metteva paura! Soltanto Silver. Silver aveva quella distinzione. Bene, dissi io. Può darsi che sia andata così e così sia. Ragione di più perché mi affretti a raggiungere i miei amici. No, no, compagno Jim, replicò Ben. Così non va. Tu sei un bravo ragazzo, se non mi sono ingannato. Ma non sei che un ragazzo, per dirla tutta. Invece... Ben Gunn è una vecchia volpe. Nemmeno il rum mi ci tirerebbe dove vai tu. Nemmeno il rum, finché non ho visto quel tuo vero gentiluomo e ottenuto la sua parola d'onore. E quando ci sarà bisogno di Ben Gunn, tu sai dove trovarlo, Jim. Proprio dove l'hai trovato oggi. E chi verrà, porti in mano qualcosa di bianco e venga solo. Tu dovrai poi dire così. Ben Gunn, ripeti, Ben Gunn ha le sue speciali ragioni. Beh, risposi, ora mi par di capire. Avete qualcosa da proporre e desiderate vedere il cavaliere o il dottore e vi si troverà dove vi ho trovato io. È tutto qui? E quando dirai tu? Aggiunse. Ecco, tra il punto di mezzogiorno... E i sei tocchi. Inteso, dissi io. E adesso posso andare? Non te lo dimenticherai, vero? Chiese ansioso. Fiducia grandissima e le sue speciali ragioni, devi dire. Le sue speciali ragioni. Questo è l'essenziale, da uomo a uomo. Bene, allora. E continuava a trattenermi. Puoi andare, Jim. Jim! E nel caso tu vedessi Silver, non ti lasceresti mica tirare a tradire Ben Gunn. Nemmeno con la tortura, vero? No, vero? E se i pirati si accampano a terra, cosa posso dirti se non che ci saranno delle vedove domattina? A questo punto fu interrotto da una forte detonazione e una palla di cannone arrivò squarciando gli alberi e affondò nella sabbia, a meno di 50 metri dal luogo in cui discorrevamo. Un minuto dopo, ciascuno dei due se l'era data a gambe in opposte direzioni. Per un'ora buona, colpi frequenti scossero l'isola e le palle continuarono a piovere, fracassando il bosco. Io passavo da un nascondiglio all'altro, sempre inseguito, o così mi pareva, da quei tremendi proiettili. Ma verso la fine del bombardamento, quantunque non mi azzardassi ancora ad avventurarmi in direzione della palizzata, dove le palle cadevano più fitte, avevo cominciato in qualche modo a riprendere animo e dopo un lungo giro verso levante strisciai giù tra gli alberi della riva. Il sole era appena tramontato. La brezza marina frusciava e scuoteva i boschi, arruffando la grigia superficie della baia. La marea dal canto suo si era ritirata e vasti tratti di sabbia emergevano scoperti. L'aria, dopo il bollore della giornata, mi faceva rabbrividire sotto la giubba. La Hispaniola era sempre ancorata nella stessa posizione, ma non c'era dubbio, era proprio il Jolly Roger, la bandiera nera dei pirati, che sventolava ora in vetta all'albero maestro. Mentre la stavo rimirando, venne un'altra vampata rossa, un nuovo colpo echeggiò e un'altra palla frullò per l'aria. Fu l'ultima del cannoneggiamento. Thank you. Mi trattenni per qualche tempo in osservazione del trambusto che seguì l'attacco. Alcuni uomini della ciurma stavano demolendo a colpi d'ascia qualcosa nella baia, presso la palizzata. La nostra povera barchetta, come dovevo scoprire più tardi. Più in là, presso la foce del fiumiciattolo, splendeva in mezzo agli alberi un gran fuoco, e tra quel punto e la nave faceva la spola un'imbarcazione. E quei marinai che avevo visto così abbattuti schiamazzavano ai remi come ragazzi. Alla fine ritenni di poter ritornare verso la palizzata. Mi trovavo assai distante sulla bassa striscia sabbiosa che chiudeva l'ancoraggio a levante ed era congiunta a bassa marea con l'isola dello scheletro, e ora, rizzatomi, scorsi a qualche distanza su quella stessa striscia più in basso sorgere tra i bassi cespugli una rupe isolata, molto alta e di un bianco speciale. Mi balenò alla mente che potesse essere quella la rupe bianca a cui aveva accennato Ben Gunn e che un giorno o l'altro, potendo esserci bisogno di qualche imbarcazione, era bene che sapessi dove cercarla. Poi rasentai i boschi finché non ebbi raggiunto la parte posteriore della palizzata lato mare e fui subito accolto cordialmente dai fedeli compagni. La mia storia fu presto raccontata e io mi misi a guardarmi attorno. Il fortino era fatto di tronchi di pino non squadrati, tetto, mura e pavimento. In molti punti il pavimento sovrastava di un piede o un piede e mezzo il livello della sabbia. Davanti all'ingresso vi era un portico e sotto il portico la piccola polla sgorgava in un bacino artificiale di tipo assai strano, che altro non era se non una gran caldaia di ferro da bastimenti, priva del fondo e interrata nella sabbia fino alla linea di immersione, come diceva il capitano. La brezza pungente della sera a cui ho accennato fischiava attraverso ogni fessura di quel rustico edificio e spruzzava il pavimento di una pioggia continua di finissima sabbia. Sabbia negli occhi, sabbia tra i denti, sabbia nella minestra, sabbia danzante nella polla sul fondo della caldaia, sabbia dovunque, come una farinata che stacchi il bollore. Il nostro camino era un buco quadrato nel tetto, ma solo una minima parte di fumo trovava la via per uscirne, e il resto turbinava per la casa, facendoci tossire e lacrimare. Si aggiunga che Gray, l'ultimo venuto, aveva il viso fasciato da una benda a causa del taglio che si era buscato svincolandosi dai rivoltosi, e che quel povero vecchio di Tom Redruth, ancora insepolto, giaceva, appoggiato contro la parete, rigido e duro, sotto la sua bandiera. Se ci fosse stato concesso di rimanere inoperosi, saremmo piombati tutti nella più nera malinconia. Ma il capitano Smollett non era tipo da permetterlo. Tutti gli uomini dovettero comparirgli davanti e furono divisi in due squadre. Nella prima il dottore, Gray e io, il cavaliere Hunter e Joyce nell'altra. Stanchi come eravamo, due furono spediti fuori a far legna, altri due a scavare la fossa per Redruth. Il dottore fu nominato cuoco, io fui posto di sentinella all'entrata e il capitano in persona passava dall'uno all'altro mantenendoci alto il morale e dando una mano dovunque occorresse. Di tanto in tanto il dottore si affacciava alla porta per prendere una boccata d'aria e riposare gli occhi che dal fumo gli uscivano dalle orbite. E ogni volta che lo faceva, aveva per me una parola. «Questo Smollett», mi disse una volta, «vale più di me. E quando lo dico io, Jim, vuol dire qualcosa». Un'altra volta venne e rimase per un po' silenzioso. Poi volse la testa da un lato e mi guardò. «Da affidamento, quel Ben Gunn?» chiese. «Non saprei, signore», risposi io. «Non sono proprio sicuro che abbia a posto tutte le sue rotelline». «Se hai qualche dubbio in proposito, vuol dire che non le ha», replicò il dottore. «Un uomo che è stato per 3 anni a mangiarsi le unghie su un'isola deserta, Jim, non c'è da aspettarsi che abbia tutte le rotelline a posto come te e me. Non è conforme alla natura umana». Thank you. Prima di cenare, seppellimmo il vecchio Tom nella sabbia e rimanemmo intorno a lui un bel pezzetto, a capo scoperto, nel vento. Una buona quantità di legna da ardere era stata portata nell'interno, ma a giudizio del capitano non era sufficiente, e scosse la testa guardandola e ci disse che bisognava mettercisi sotto l'indomani con un po' più di energia. Poi, mangiato il nostro lardo e bevuto ciascuno un buon bicchiere colmo di ponce alla grappa, i tre capi si raccolsero insieme in un angolo a discutere la nostra situazione. Sembra che fossero a corto di idee circa il da farsi, perché le provviste erano così scarse che avremmo dovuto arrenderci per fame molto prima che potessero giungere soccorsi. La nostra migliore speranza, si concluse, era quella di uccidere pirati finché o abbassassero la loro bandiera o fuggissero con l'Hispaniola. Da 19 erano già ridotti a 15. Altri due erano feriti e uno almeno, quello colpito vicino al cannone, ferito grave, seppure non morto. Ogni volta che avessimo l'occasione di tirare, dovevamo approfittarne, risparmiando le nostre vite con la massima cura. E a parte ciò, avevamo due efficaci alleati, il rum e il clima. Quanto al primo, quantunque fossimo distanti un mezzo miglio, potemmo sentirli berciare e cantare fino a notte inoltrata. Quanto al secondo, il dottore scommetteva la sua parrucca che, accampati dove erano nella palude e sprovvisti di medicinali, metà sarebbero stati a terra prima di una settimana. Cosicché, aggiunse, se non ammazzano tutti noi prima, non gli sembrerà vero di far fagotto con la goletta. È sempre un bastimento. E possono rimettersi a pirateggiare, credo. Sarebbe il primo bastimento che perdo, disse il capitano Smollett. Ero stanco morto, come potete figurarvi, quando andai a riposare, e dopo essermi rigirato per un bel po', dormii come un ghiro. Gli altri si erano alzati da tempo, avevano fatto colazione e aumentato la catasta della legna di una buona metà, quando fui destato da un trambusto e rumorio di voci. «Bandiera bianca!» sentii dir da qualcuno. E poi subito dopo con un grido di sorpresa. «Silver, in persona!» Allora balzai su e fregandomi gli occhi corsi a una delle feritoie della parete. Proprio così! C'erano due uomini appena fuori dello steccato. Uno che sventolava un cencio bianco. L'altro, niente meno che Silver in carne e ossa, che gli stava placidamente accanto. Era ancora assai presto e la mattina più ghiaccia che io abbia mai incontrato. Un gelo che penetrava al midollo. Il cielo era chiaro e senza nubi e le cime degli alberi tinte di rosa dal sole. Ma dove si trovava Silver col suo luogotenente, tutto era ancora in ombra e i due guardavano immersi fino al ginocchio in una bassa caligine biancastra che era salita durante la notte dalla palude. Il freddo e quella caligine accoppiati facevano una ben brutta propaganda all'isola. Era indubbiamente una località umida, malsana, miasmatica. «Tenetevi coperti, ragazzi!» disse il capitano. 9 su 10, questa è una finta!» Poi si indirizzò il filibustiere. «Chi va là? Fermi o faccio fuoco!» «Bandiera bianca!» gridò Silver. Il capitano era sotto il portico e si teneva cautamente defilato da un possibile colpo a tradimento. Si volse a noi e ordinò. «La squadra del dottore Monti di guardia, Dottor Livesey, prendete il lato nord per piacere. Jim, quello di Levante. Gray, quello di Ponente. L'altra squadra, tutta a caricare i moschetti. Sveglia, ragazzi, sveglia e attenzione! Poi si rivolse di nuovo ai ribelli. E che cosa volete con la vostra bandiera bianca? Questa volta fu l'altro a rispondere. Signore, il capitano Silver chiede di salire a bordo e trattare. Il capitano Silver? E chi è? Gridò il capitano e lo sentimmo aggiungere fra sé e sé. Un capitano, cospetto, queste sì che sono carriere. Long John rispose per conto suo. Sono io, signore! Questi poveri figliuoli hanno scelto me per capitano dopo la vostra diserzione, signore! E accentuava in modo speciale la parola diserzione. Siamo pronti ad arrenderci, se possiamo venire a un accordo, senza tante storie. Tutto quanto vi chiedo, capitano Smollett, è la vostra parola, che mi lascerete uscire sano e salvo da questa palizzata e mi darete un minuto per portarmi fuori di tiro prima che sia sparato un colpo di fucile. Amico mio, disse il capitano Smollett, non ho la minima voglia io di parlare con te. Se vuoi tu parlare con me, puoi farti avanti, ecco quanto. Se vi sarà qualche tradimento, verrà da parte tua e il Signore ti assista. «E quanto basta, capitano!» gridò Long John allegramente. «Una vostra parola mi basta! So riconoscere un gentiluomo, io! Potete esserne certo!» Potemmo vedere che l'uomo dalla bandiera bianca tentava di trattenere Silver. Ne poteva stupire data la risposta brusca del capitano. Ma Silver gli fece una gran risata in faccia e gli diede un colpetto sulla schiena a significare che l'idea di un pericolo era assurda. Poi avanzò fino alla palizzata, lanciò al di sopra di quella la sua gruccia, prese lo slancio con la sua gamba e con grande vigore e destrezza scavalcò la cinta e si lasciò cadere incolume dall'altra parte. Devo confessare che mi ero talmente lasciato assorbire da quanto stava accadendo da risultare meno che inutile come sentinella. Infatti avevo belle disertato la mia feritoia di levante e mi ero insinuato dietro il capitano, il quale adesso si era seduto sul pavimento con i gomiti sulle ginocchia, la testa fra le mani e gli occhi fissi sull'acqua che gorgogliava fuori della vecchia caldaia insabbiata. Fischiettava fra sé e sé. Silver durò una fatica tremenda a scalare il monticello. Tra la ripidezza del pendio, i fitti ceppi degli alberi e la sabbia soffice, lui e la sua gruccia erano in difficoltà, quanto una barca controvento. Ma ci si accanì come un forzato e alla fine pervenne davanti al capitano, che salutò con il più perfetto saluto d'ordinanza. Si era messo in alta tenuta. Un immenso abito blu, sovraccarico di bottoni d'ottone, gli pendeva addosso fino alle ginocchia e un cappello finemente gallonato gli scendeva sulla nuca. «Eccovi arrivato, marinaio», disse il capitano alzando il capo. «Sarà meglio che vi sediate». «Non vorreste farmi entrare, capitano?» disse Long John. «È una mattinata troppo ghiaccia per sedere fuori sull'arena». «Ehi, Silver», disse il capitano, «se vi foste compiaciuto di fare il galantuomo, avreste potuto rimanere seduto nella vostra cucina. L'avete voluta. O siete il cuoco della mia goletta, e allora eravate trattato con i guanti, o siete il capitano Silver, un volgare pirata ammutinato, e allora potete andare al diavolo». Beh, capitano, replicò il cuoco di bordo mettendosi seduto come gli era stato ordinato sull'arena, vi toccherà darmi la mano per tirarmi su, ecco quanto. Avete trovato un posticino delizioso, a quel che vedo. Toh, ecco Jim. Buongiorno a te, Jim. Ai vostri comandi, dottore. Qui siete tutti riuniti come una famiglia felice, per così dire. Se avete qualcosa da dire, marinaio, sarà meglio che vi sbrighiate, disse il capitano. Giusto, giusto, giusto, capitano Smollett, rispose Silver. Il dovere è dovere, non c'è dubbio. Ma sentite, quello di ieri sera è stato un bel tiro. Un bel tiro, non lo nego mica. Qualcuno di voi è maledettamente abile nel maneggiare il manganello. E non negherò nemmeno che qualcuno ne è rimasto impressionato. E forse anche tutti. E forse anche ne sono rimasto impressionato anch'io. E può darsi che per questo abbia deciso di venire qui a trattare. Ma badate bene, capitano, non succederà due volte per la galera. Faremo buona guardia e berremo meno rum. Probabilmente crederete che avessimo tutti quanti una piomba mortale. Ma vi dirò che io almeno ero perfettamente in me. Soltanto ero stracco quanto il ciuco del pentolaio. E se mi fossi destato un secondo prima, vi avrei colti sul fatto io. Lui non era ancora morto quando gli fui sopra, non ancora. E allora? Disse il capitano Smollett, gelido. Tutto quanto Silver aveva detto era un enigma per lui, ma non l'avreste mai indovinato dal suo tono. Quanto a me, cominciavo a intravedere un barlume. Le ultime parole di Ben Gunn mi tornarono in mente. Cominciai a supporre che fosse stato lui a visitare i filibustieri mentre giacevano ubriachi intorno al fuoco e presi atto, con giubilo, che ci restavano solo 14 nemici da liquidare. We'll be right back.